15 gennaio de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 15 gennaio. Il signor Venanzio è uggioso, ne convengo, ma ha delle buone qualità. Con me, per esempio, è pieno di gentilezze e dice sempre che sono un ragazzo originale e che si diverte un mondo a sentirmi discorrere. È di una curiosità straordinaria, vuol saper tutto quello che si fa in casa e tutto quello che si dice di lui e per questo mi dà 4 soldi al giorno. Stamani, per esempio, si è molto interessato ai soprannomi coi quali lo chiamano in casa e io gliene ho detti parecchi. Mia sorella Virginia lo chiama vecchio spilorcio, sordo rimbambito, spedale ambulante. Il Maralli lo chiama lo zio Tirchio, lo zio Rudero, e spesso gli dice anche vecchio immortale, perché non muore mai. Perfino la donna di servizio gli ha messo il soprannome. Lo chiama Gelatina, perché trema sempre. «Meno male», ha detto il signor Venanzio. «Bisogna convenire che fra tutti la più gentile verso di me è la serva. La ricompenserò». E si è messo a ridere come un matto. Fine del 15 gennaio.